4 mattino. E come la mettiamo col fatto che anche la Svezia ha chiuso le scuole, che anche la Germania chiuderà tutto, anche le scuole? Qualcuno me lo spiega? Secondo lei non bastava proteggere alcune categorie di persone a rischio, anziani, persone che hanno patologie, al posto che chiudere un mondo intero? Forza Fedez, forza Fedez, io sono un ragazzo senegalese e so che cos'è la fame. Allora andare a aiutare la gente in mezzo alla strada, secondo me, dovrebbe avere un gran cuore per farlo. A noi non ci importa che c'ha con il Lamborghini o altro. Sono gente che hanno miliardi sui miliardi di euro e non lo fanno. Allora forza lui, dai. No, ma se c'è qualcuno che ogni tanto fa qualcosa per gli altri, perché dobbiamo criticarlo? Anche se lo fa nella sua maniera, l'importante è che faccia qualcosa. E noi cosa facciamo? Dai Fedez, dai. Ancora sulla scuola, io so che questa cosa vi scalda tantissimo. Sì, è vero che la Svezia adesso ha chiuso le scuole, ma le ha tenute aperte. È vero che la Germania adesso chiude le scuole, ma le ha tenute aperte. Quello che stiamo dicendo è semplicemente che questo è il paese che ha tenuto le scuole chiuse più a lungo in assoluto. E adesso sta circolando l'ipotesi che al 7 gennaio le scuole superiori non si riaprano. Allora, vogliamo dirci che non diciamo a marzo nel pieno dell'epidemia, non diciamo ad aprile che ancora eravamo in uscita, ma da maggio un piano per far rientrare in sicurezza o in semisicurezza i ragazzi nelle scuole si potesse pensare? Lo vogliamo dire? La vogliamo dire questa cosa? O vogliamo dire che l'unica soluzione è chiudere le scuole? Dai ragazzi, su! Ma su! Scusate, mi ci scaldo su questa cosa perché mi sembra pazzesco, dato che ci sono delle indagini precise che accertano che il non andare a scuola, il fare solamente didattica a distanza ha un impatto pesante sulle capacità e sulla... sulle capacità dei ragazzi, ha un impatto pesante sulla socialità dei ragazzi. A questa cosa dobbiamo pensare, perché so che sembra retorico, ma questi sono il nostro futuro. E allora, se gli togliamo istruzione, quindi capacità di far crescere il paese, se gli togliamo socialità e quindi gli creiamo qualche forma di problema psicologico, è qualcosa di cui noi dobbiamo tenere conto, punto e basta. Poi ragioniamo su tutto, ragioniamo che questa didattica a distanza sia al 70%, al 75% e fa il 25% in classe, fai 50 e 50, pensiamo quello che vogliamo, però pensiamoci a questa cosa perché è una cosa importante, punto e basta. Non c'è massimalismo, mi pare, in questa affermazione. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. È mercoledì 16 dicembre, sono le 7:21 minuti e 23 secondi. Questa è la seconda parte di 24 mattina, quella dedicata alla rassegna stampa, e al microfono, come sapete, c'è sempre Simone Spezia. I giornali, le aperture sono ancora su questa, un po' su questo giro che ha a che fare con la pandemia, con le regole, con i vaccini. Quindi vaccini, siamo pronti, è il titolo del Corriere della Sera, con l'Agenzia per il Farmaco che potrebbe dare l'ok addirittura lunedì. Si citano anche i dati sul virus, 846 vittime appunto del virus. La Repubblica, il vaccino di Natale, anticipato al 21 dicembre il via libera a Pfizer. Il Libero si sofferma sui morti, più morti di corona che in tempo di guerra, oltre 700.000 come nel 44. A proposito di questo dato fornito dal presidente dell'Istat Blangiardo, qualche ascoltatore ci ha scritto contestando un po' questo dato. Alcuni hanno detto: guardate, i morti per la guerra sono stati nel 44 150.000, sì, ma il dato è sulla somma dei morti in guerra e dei morti per altri motivi, sono stati 700.000 come nel 44 nel quale gli italiani erano tra l'altro 45 milioni, quindi questa cifra appunto ovviamente ha naturalmente un valore diverso, e questo è chiaro, però è una cifra notevole se si considera che il numero di morti negli anni è sempre è tendenzialmente sceso. Nel 2015, che è stato un anno orribile sotto questo aspetto, i morti sono stati 650.000. Ostaggi di Conte, il titolo del giornale, su tutti questi dubbi che abbiamo su che cosa si può fare sotto Natale o non sotto Natale, l'incognita feste, il premier non decide su chiusure e spostamenti lasciando il paese nell'incertezza. Anche La Stampa apre sul vaccino a Natale, il via libera dall'Unione Europea, il Quotidiano Nazionale sulla stretta di Natale, la lite tra gli esperti. Il Messaggero proprio sulla scuola, scuole riaperte, il governo frena, esperti d'accordo con l'esecutivo, con questi dati non si può tornare in aula a gennaio. E La Verità invece, che intervista il vice ministro alla salute Sileri, che il quale attacca duramente sul famoso piano pandemico che non c'è ancora. Voglio dimissioni e un'indagine. Ministero della Salute da ricovero è il titolo della Verità. Il Fatto Quotidiano se la prende con Matteo Renzi e il titolo è The Clown, giocando con il titolo della serie televisiva dedicata ai reali inglesi, e c'è una foto di Matteo Renzi con un cilindro. Di fatto hanno preso la regina e il principe, mettendogli la faccia di Renzi e la faccia di Teresa Bellanova. Renzi non va da Conte per i 5 minuti di Bellanova all'Unione Europea, poi dice ma che crisi, e di qui il titolo The Clown. Non è qui la festa, il titolo del Manifesto per la nuova impennata dei morti Covid e le riflessioni sul Natale. Anche il Sole 24 Ore apre sull'Europa che accelera sui vaccini con l'Italia che insegue e poi ci porta sui dati demografici diffusi ieri, 5 anziani per ogni bambino, un tema enorme questo, quello degli aspetti demografici che sono stati evidenziati ieri dall'Istat. Infine Avvenire, che apre sul tema della povertà, miseria e nobiltà. E iniziamo oggi la rassegna stampa proprio da qua. Mi perdonerete se il tema non è propriamente allegro, un tema che poi tratteremo alle 8.35, però è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Ci facciamo i conti con negli occhi quelle immagini che abbiamo visto a Milano, appunto, delle file a Pane Quotidiano, questa realtà che appunto distribuisce cibo, distribuisce pasti e cibo alle persone. Avvenire ci porta in una serie di città, ci porta in una serie di territori con due pagine, pagina 6 e pagina 7. A Roma i poveri sono ovunque, il pezzo lo firma Antonio Maria Mira, quasi il 10% della popolazione romana non riesce ad affrontare spese improvvise o quelle legate all'abitazione come mutuo, locazioni, spese condominiali e bollette. Il 7% vive in condizioni di grave deprivazione abitativa, immobili insicuri o precari, mal riscaldati, in condizioni igieniche inadatte, alloggi in strada come roulotte, tende o baracche, un dato superiore di quasi 2 punti percentuali rispetto a quello nazionale che arriva al 5%. E che cosa è successo con la crisi da Covid? Quasi 7.500 persone si sono rivolte per la prima volta ai centri d'ascolto delle Caritas parrocchiali. Sono raddoppiate le tessere per l'Emporio della Solidarietà. Più 28,7% l'attività delle mense. Sono i dati diffusi proprio ieri, appunto, dalla Caritas. Avvenire che ci porta anche a Milano. Tra i dati significativi, sempre dalla Caritas, un aumento del 45% a partire dal semi-lockdown delle persone che sono ricorse agli empori della solidarietà per fare la spesa, un incremento che si somma a quello registrato in primavera, durante il quale i beneficiari erano raddoppiati. In 2 mesi, dunque, oltre 3.000 impoveriti da Covid si sono trovati a fare affidamento su questa rete di assistenza. E ancora Prato, che pensavamo La comunità cinese di Prato, la più vasta d'Italia, la più grande d'Italia, la pensavamo quasi intoccabile. Invece, ci racconta Giulia Ghizzani a pagina 7 di Avvenire, ebbene, la povertà arriva anche qua. Abbiamo scoperto che esistono nuovi poveri, persone che hanno fame all'interno della comunità cinese, sottolinea Davide Finizio, segretario del Tempio Buddista. Non avevamo mai affrontato simili casi fino ad ora. In un primo momento l'associazione cinese avevano pensato di allestire una mensa per i nuovi poveri, dice il consigliere comunale di origine cinese Marco Wong. Più di recente si era parlato di una colletta per acquistare generi di prima necessità. In generale ci sono cinesi in grave difficoltà economica a causa degli effetti del coronavirus. E se volete ci possiamo aggiungere questa dalla cronaca di Milano del Corriere della Sera, pagina 4, un racconto, una notte passata da Andrea Galli insieme ai clochard che sempre più affollano le strade della città. Siamo troppo in strada, ci rubiamo fra noi bottoni e monete, è il racconto. E infine l'intervista di un banchiere. È l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, parla con Massimo Giannini sulla Stampa e siamo a pagina 8. Innanzitutto interviene sulla parte politica e sulla parte del governo, dice: all'Italia serve stabilità politica, ma dice appunto la prima emergenza è la povertà. Apriamo con questo. Se avete le vostre idee, le vostre posizioni su questi temi, se avete un racconto da fare, c'è il 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, che siate volontari o che siate stati costretti a rivolgervi a uno di questi centri. Bene, siamo qua, ne parleremo a partire dalle 8.35. Prima di andare alla pausa, due storie di donne. La prima è questa, e vengono tutte e due, le prendiamo tutte e due al Quotidiano Nazionale. La prima è la storia del Codacons. A chi fosse sfuggito, ieri il Codacons ha avuto quello che potremmo definire, aperte virgolette, un infortunio, chiuse virgolette, niente male. Ossia, ha fatto il suo calendario annuale, il calendario annuale del Codacons, con delle modelle nude. Delle modelle nude, e tutte indossano in bianco e nero, tutte indossano solamente una mascherina con la bandiera dell'Italia. Cosa ha fatto il Codacons, mettendoci il carico da 12? Ha deciso di fare un contest su Facebook per votare la più bella. Apriti cielo, è partito Carlo Calenda. Il calendario del Codacons con tanto di votazione delle modelle. L'iniziativa è coerente con i loro obiettivi statutari e l'idea di donna è l'unica che il solitario neurone di Rienzi riesce a concepire. Così Calenda sul presidente del Codacons. Tiziana Luxardo, l'autrice degli scatti, si definisce femminista e dice: difendo i nudi artistici, ma l'idea del concorso la boccio, non mi appartiene. È stata una scelta del Codacons. Ho fatto calendari sulla disabilità, contro la violenza, volevo celebrare la bellezza dell'Italia, non certo mercificare il corpo delle donne. Rienzi si difende, meno male che c'è Calenda, altrimenti nessuno avrebbe parlato di questo bellissimo calendario. Mi domando come Calenda non si sia accorto che l'anno scorso abbiamo fatto una mostra dove venivano rappresentati atti sessuali etero ed omosessuali, anche con animali. E questa mostra è servita moltissimo per far capire agli studenti cosa non si deve fare, a sensibilizzare sulla violenza contro le donne. Beh, forse Rienzi avrebbe fatto meglio semplicemente a scusarsi e a dire: abbiamo scivolato, abbiamo preso una cantonata. A pagina 21, sempre del Quotidiano Nazionale, io non mi capacito ancora di dettagli che emergono dalla vicenda che lungamente abbiamo raccontato, della maestra dell'asilo nido nel Torinese, le cui foto, i cui video hot sono stati intimi, sono stati diffusi nella chat di Calcetto da quest'uomo, condannato ad un anno di lavori socialmente utili per aver fatto questo. E poi è stata sostanzialmente costretta a dimettersi. Io non mi capacito veramente delle cose che emergono poi dal processo, da quello che emerge, che dice la dirigente scolastica. Cosa emerge ancora? Questa maestra, una ragazza di 22 anni, appunto finita al centro di critiche dopo questa diffusione di immagini intime, emerge un WhatsApp audio mandato dalla dirigente scolastica a tutte le altre maestre, nel quale dice: allora ragazzi, ho pensato di fare un vocale, domattina mi darete tutti i cellulari perché ho paura che lei possa prendere come pretesto qualsiasi cosa per danneggiarci, per favore cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato, qualsiasi cosa succeda mi chiamate, io lo prendo come pretesto per mandarla via, fatemi sta cortesia, io non so più che cosa fare. Dopodiché il giorno dopo la riunione, lei in lacrime, alcune maestre dicono: guardate che in realtà è lei che si è voluta dimettere. Ma certo che la condizione nella quale è stata messa è stata terrificante, e ovviamente c'è il processo e la dirigente è accusata di diffamazione e violenza privata. Una pausa. Sul discorso dei trasporti, io non vedo proprio cosa ci sta a fare il governo nella lista delle responsabilità, visto che regioni e comuni proprio quello devono fare. Non vedo perché il governo deve mettersi bocca su trasporto pubblico locale, cioè sarebbe una follia sta roba. Sono un insegnante, mi sono scocciato di sentire in continuazione le persone che dicono che le scuole sono chiuse. Non è vero, non è vero. Né infanzia, né medie, né elementari sono stati a casa un solo giorno. Cosa sarebbe questa novità che forse al 7 di gennaio non si va a scuola, non le riaprono? E se non riaprono le scuole, ma almeno le attività sportive che questi ragazzi facevano durante l'anno normalmente potranno riprendere? Non possiamo lasciarli bighellonare in giro aspettando un futuro migliore. Oh sì sì, colgo l'osservazione dell'ascoltatore che fa l'insegnante, sì, ha perfettamente ragione, è vero, le elementari, le medie sono state chiuse, diciamo così, chiuse di meno, quantomeno nelle medie la... alcune classi, però è vero, la scuola in quel caso non è stata chiusa. Si è deciso di procedere, di chiudere le superiori. È una riflessione che la riflessione, per quanto mi riguarda, per come la vedo io, resta aperta naturalmente sul fatto dei ragazzi delle superiori. E quella novità qual è? La novità è che sta circolando questa ipotesi, ieri ne ha parlato Gianni Rezza, a quanto pare nel governo si starebbe riflettendo su questo. Veniamo ad altro e avviciniamoci lentamente a tutta questa questione politica, che devo dirvi la verità, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, si sta sgonfiando, piano piano, col tempo si sta sgonfiando, sembrava che la crisi di governo fosse ad un passo, è già quasi tutto finito, però ci avviciniamo lentamente tornando sulla vicenda che abbiamo affrontato ieri e che... sulla quale torna il Fatto Quotidiano. E questa inchiesta del Fatto Quotidiano che racconta come, lo abbiamo detto, i manager e i funzionari di Stato nominati dalla Lega avessero un dovere morale, così definito in una circolare interna, di dare il 15% del loro stipendio al partito. Il sistema del 15%, racconta Stefano Vergini in questa nuova puntata dell'inchiesta, si applica su tutto, dalla nomina nel consiglio d'amministrazione del museo militare di Turate, 9.000 abitanti in provincia di Como, fino ai consigli di amministrazione di Eni ed Enel, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi di Siena, Terna e Fondazione Cariplo. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato, scrive Vergini, come la lottizzazione della sanità da 20 anni significa assegnare posti in cambio di donazioni, versamenti da 6-7.000 euro l'anno che i più svariati direttori delle ASL e Lombarde hanno fatto affluire anno dopo anno nelle casse della Lega. E poi però, appunto, come si diceva, emergono altri punti, altri spunti, Eni, Enel, la RAI con i componenti del CDA, i direttori anche come Antonio Marano, direttore di Rai 2, eccetera, eccetera. E questi ci sono un po' di spunti che emergono ancora una volta da questa inchiesta del Fatto. Vi voglio portare però su chi difende questa scelta, perché lo fa per esempio il Giornale a pagina 4 con Gabriele Barberis, il quale dice questo: non c'è bisogno di leggere i verbali di un commercialista indagato nel caso Lombardia Film Commission per scoprire quanto sa anche l'ultimo consigliere di circoscrizione. La politica si autofinanzia con le donazioni di eletti e nominati dai partiti. Il parlamentare, il consigliere di assemblea e il membro di un consiglio d'amministrazione pubblico non incassano mai il compenso totale. come hanno divulgato negli ultimi anni i paladini dell'anticasta. Una cospicua percentuale, generalmente concordata prima delle candidature, finisce direttamente nelle casse dei movimenti. Anzi, in alcuni casi l'assegnazione di un collegio sicuro coincide con un versamento anticipato sui futuri emolumenti. Scandalo, malcostume, corruzione mascherata, un po' di tutto questo certamente. Al cittadino a digiuno della vita di palazzo risulta indigesto un tale sistema. Ma la vita pubblica funziona così, almeno quella repubblicana, che inizia con le elezioni del 46 per l'Assemblea Costituente. Scrive ancora Barberis: per decenni il Partito Comunista Italiano è stato il più inflessibile esattore nei confronti dei propri rappresentanti, che beneficiavano di compensi pubblici. Il cassiere PC a tutti i livelli decimava con ferocia indennità e gettoni in nome della disciplina di partito. E ancora ai tempi del PDS, primi anni 90, Botteghe Oscure forniva ai propri deputati spennati abitazioni nei dintorni del Parlamento da condividere in tre o quattro per sopperire al salasso. E ancora cita questa norma che riguarda il Movimento 5 Stelle, come sapete, che impone ai parlamentari di versare del denaro nelle casse, di decurtarsi una parte dello stipendio per farlo confluire, in questo caso non a finanziare il movimento, ma in una sorta di cassa comune che poi va per svariate attività. Così appunto Gabriele Barberis sul Giornale, che un po' sembra un po' sminuire, no? tutta questa vicenda. Questo per chiudere almeno per il momento il capitolo, vedremo se poi avrà evoluzioni e se avremo modo di tornarci nei prossimi giorni. Intanto vi voglio portare sulle questioni economiche, dei decreti, della manovra e via dicendo. Qua ci sono due cose che hanno attirato la mia attenzione. La prima è quella sollevata ieri da Enrico Zanetti, fondatore di eutecne.info e già vice ministro all'economia, tra l'altro qualche volta ospite da noi, come ben sapete, il quale ha reso nota questa notizia che l'Agenzia delle Entrate ha bloccato l'IVA agevolata per l'asporto a ristoranti e bar. Cosa succede? Che normalmente quando vai a mangiare in un ristorante l'IVA è al 10%. Nei giorni scorsi c'era stata un'interrogazione per chiedere se quest'IVA al 10% potesse essere mantenuta anche per l'asporto, visto che i ristoranti sono chiusi, non ci si può mangiare, c'è solamente l'asporto. L'IVA la teniamo al 10%. Il sottosegretario Alessio Villarosa, il sottosegretario dell'economia, aveva detto: certo, certamente faremo esattamente così. Poi però è arrivato un'esplicita richiesta all'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere no, l'IVA sarà al 22%, il che apre tutta una serie di fronti. Innanzitutto quello che riguarda i ristoratori, che in questo momento appunto possono fare quasi solo asporto e quindi sarebbe il caso di tenergliela l'IVA al 10%. Ma l'altro fronte è questo, che è una sorta di sberla, come dice Claudio Antonelli sulla Verità a pagina 7, dell'amministrazione fiscale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché tu non puoi avere un sottosegretario che il giorno prima ti dice una cosa, o meglio tre settimane prima ti dice una cosa, e l'Agenzia delle Entrate che tre settimane dopo te ne dice un'altra completamente opposta. E a proposito di acquisti, apprendiamo questo dal Sole 24 Ore a pagina 41, che i pagamenti bancomat contactless, quelli che fate appoggiando semplicemente la carta, rischiano di non entrare nel cashback. Ma come? Mi avete detto, vai nei negozi fisici, utilizza il denaro elettronico e poi non funziona. E come mai non funziona? Non funziona perché il circuito maestro non ha ancora siglato la convenzione con PagoPA e quindi non sono state ancora sviluppate le implementazioni tecniche. Dunque, quando tu appoggi la tua carta Bancomat Maestro, quasi sempre il pagamento finisce nel circuito maestro, quindi sei convinto che quei soldi possano andare ad alimentare questo 10% recuperabile con la spesa del denaro elettronico, e invece tutto questo non avviene. Il traffico, e poi andiamo su un po' di politica. Quattro mattino. Qualche ascoltatore dice: certo che la crisi di governo è già finita, scrive, no? Sono tutti attaccati alla poltrona. Oh, io non amo espressioni così, così dure, però a leggere tra le righe il pezzo del professor Roberto Dalimonte a pagina 15 del Corriere del Sole 24 Ore, beh, pare proprio di sì. Ancora una volta, scrive Dalimonte, tanto rumore per nulla. Periodicamente si torna a parlare di crisi di governo e di possibili elezioni anticipate senza tener conto della realtà. Sono i numeri a dirci che l'ipotesi di elezioni prima del 2023 è del tutto infondata. È vero che i numeri sottendono a comportamenti razionali e gli umani, compresi i politici che siedono in Parlamento, spesso non lo sono. Ma quando si tratta di convenienze politiche ed economiche chiaramente definite, è difficile che le emozioni sostituiscano il calcolo razionale. E quindi, Dalimonte ci pubblica un'agile tabella su come sarebbe composto il Parlamento, su quanti seggi avrebbero i singoli partiti nel caso si andasse al voto adesso col Parlamento dimezzato. Fatti i calcoli, sia in base ai voti delle europee, sia in base alla media dei sondaggi attuali, l'unico partito destinato ad avere più seggi, se si votasse oggi, sarebbe Fratelli d'Italia. Per la Lega la differenza in meno sarebbe modesta, per tutti gli altri le elezioni sarebbero un disastro, in particolare per il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Il primo passerebbe dagli attuali 339 rappresentanti a poco più di 100. La seconda passerebbe da 162 a 55. Sono calcoli fatti utilizzando il sistema elettorale proporzionale, se in discussione in Parlamento. Se utilizzassimo l'attuale sistema elettorale, la legge Rosato, le cose per i partiti di governo molto probabilmente andrebbero anche peggio. Quanto a Renzi, che oggi può contare su 30 deputati e 18 senatori, Calenda e Bonino non compaiono nelle nostre stime, perché la clausola del 5% e la stima della loro forza attuale li terrebbe fuori, a meno che non formino un cartello allo scopo di superare quella soglia. Questi i numeri che ci consegna Roberto Dalimonte e che ci fanno dire: beh, a questo punto la crisi appare improbabile. Posto che troviamo, se volete altri elementi, c'è sempre l'ottima Lina Palmerini nel suo Politica 2.0, sempre sul Sole 24 Ore, il suo commento sulle mosse di Renzi, l'analisi sulle mosse di Renzi tra tattica e realtà, questa sorta di presa di tempo, questo incontro con Conte rinviato, questa resa dei conti rinviata. Apprendiamo da Repubblica il retroscena, perché è periodo, grande periodo di retroscena questo, con Annalisa Cuzzocrea, la quale ci dice che Conte apre sul recovery fund, sulla squadra per il recovery fund, ma si tratta anche sui servizi, che era l'altro tema sul piatto, per quanto Renzi ieri abbia poi alzato la posta e detto: quello che voglio per non ritirare la nostra delegazione dal governo è che si attivi il MES sanitario. Vedremo come andranno le cose. Intanto le cose non vanno bene nemmeno dalle parti del Movimento 5 Stelle, a dire il vero, perché ci racconta Pasquale Napolitano sul Giornale a pagina 12 che Davide Casaleggio ha convocato il controevento degli stati generali del Movimento 5 Stelle a segnalare e a segnare il fatto che evidentemente se non c'è una scissione in atto poco ci manca. Casaleggio e la sua squadra di fedelissimi, da Enrica Sabatini a Max Bugani, organizzano a Roma gli Stati Generali Ombra, così li chiama Pasquale Napolitano. Il titolo dell'iniziativa sarà "La base incontra Rousseau", uno slogan che vuole rimarcare il ritorno alle origini, la distanza dall'attuale linea del movimento, alla base, al ruolo della militanza. È una dichiarazione di guerra, stavolta anche pubblica, contro il gruppo dei governisti guidato dalla coppia Taverna di Maio, che terranno appunto sabato 19 e domenica 20 le due giornate interamente dedicate all'agenda politica. A proposito di 5 Stelle, vi segnalo questa operazione messa in atto dal programma di La 7 Propaganda Live, che dalle europarlamentari dell'anno scorso ha infiltrato un suo collaboratore nella piattaforma Rousseau della Democrazia Diretta. Ma la storia ci racconta il Giornale a pagina 12, sempre con Domenico Di Sanso, è che questa vicenda sta avendo un successo insperato, perché l'infiltrato Riccardo Paolone sta avendo una marea di consensi, sono i Mifido sulla piattaforma Rousseau. Alessandro Di Battista è in testa con 821 like. Luigi Di Maio a 434, superato dal senatore Nicola Morra con 486. Ma Paolone ha 302 Mifido, ha un'incollatura dal gestore della piattaforma, lo stesso Casaleggio che ne ha 310, e doppia il capo politico reggente Vito Crimi, che risulta fermo a 143. Va bene, io vi risparmio, se posso, vi risparmio tutta la discussione sulle regole, perché oggettivamente non sappiamo ancora nulla. Per darvi la misura, Corriere della Sera, pagina 6, scontro sulla zona rossa per le feste e il parere degli scienziati è un caso. Il Quotidiano Nazionale ci racconta che il virus ci dà ancora, e ci dà conto anche di quello che ha detto ieri Gianni Rezza sul fatto che si allontana il ritorno a scuola, mentre le preoccupazioni si addensano in queste ore soprattutto sul Veneto. Da segnalare per la giornata di oggi sul fronte pandemico anche la tensione che sta attraversando il Ministero della Salute in questi giorni, testimoniata ancora una volta dal vice ministro Pierpaolo Sileri, che si fa intervistare a Francesco Borgonovo sulla Verità. Vi do il titolo per darvi la misura di quello che sta succedendo: piani fantasma e manager sciatti, adesso serve un'indagine interna, dice il viceministro che l'amministrazione non funziona, il segretario generale Giuseppe Ruocco si deve dimettere. Dice anche, fa capire anche il viceministro, che ci sono preoccupazioni perché i dispositivi, le siringhe scelte dal commissario Arcuri per il vaccino non avrebbero il meccanismo per ricoprire l'ago, titola La Verità, Arcuri fa le siringhe ma non i cappucci. GR24, ci risentiamo tra poco.